America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, freddo glaciale in città, siamo arrivati a meno 23 gradi con il chill factor, il fattore vento. Fuori, devo dire, è impossibile. Oggi è President's Day, la festa dei presidenti americani, dunque per fortuna scuole chiuse e gente chiusa a casa. Oggi però voglio parlarvi di italoamericani, perché domani sera, narrato da Stan Letucci, partirà sulla PBS un documentario dedicato appunto agli italoamericani. At the dawn of the 20th century, over 4 million Italians arrived in America. The largest wave of immigrants the country had ever seen. È un documentario, devo dire, è molto completo, lungo, che si sviluppa su varie puntate, narrato da Stanley Tucci, che è un grandissimo attore italo-americano. E in questo documentario ci sono interviste con personaggi italo-americani che raccontano della loro storia, delle loro famiglie, per esempio Gay Talese, che è un grande scrittore, Tony Bennett, il grande cantante, Antonin Scalia, giudice della Corte Suprema americana. Potrei continuare, ma il senso qual è? Voglio dire, semplicemente avendovi fatto questa piccola lista vi rendete conto che gli italoamericani hanno raggiunto delle posizioni, come dire, di totale integrazione nel sistema americano e addirittura svolgono dei ruoli ormai chiave, sono completamente integrati. E dunque, nel momento in cui perdono quella che poteva essere, come dire, un chip on the shoulder, si direbbe in America, un po' di insicurezza per il fatto di essere legati a questioni di mafia, per il fatto di essere legati con l'immagine dell'immigrato che arriva con lo spago sulla valigia, eccetera, eccetera, ecco, nel momento in cui arrivano a questo livello di emancipazione, ritrovano e riscoprono il legame con il loro paese. Dunque, con grande commozione, emozione e devo dire anche partecipazione e felicità addirittura, raccontano delle loro origini italiane. Ecco, il documentario è molto bello, è stato tra l'altro trasmesso anche in Italia in parte, però secondo me manca di una componente che riguarda l'immigrazione italiana in America, cioè di quell'immigrazione non tradizionale, di un'immigrazione che a partire dal 700, dall'800 ha portato degli italiani a cercare di scoprire nell'America qualche cosa, a cercare di fare dei progetti che avessero anche un contenuto intellettuale, insomma quegli italiani che non sono arrivati con lo spago e la valigia. Uno di questi era Fortunato Vanni, il quale è arrivato in America, pensate, intorno al 1880. E che cosa ha deciso di fare? Di aprire una libreria. Ecco, è stata la prima libreria italiana in America, una libreria che poi ha lavorato per 150 anni, che ha fatto molta storia, che ha chiuso, perché come sempre succede, le storie finiscono, soprattutto di questi tempi molto difficili per le librerie, lo sappiamo dalle storie che leggiamo ogni giorno sui giornali, ma con un esito a lieto fine, e cioè la libreria di Fortunato Vanni, che poi è passata Andrea Ragusa negli anni 30, riapre, e riapre fra poco, nel giro di una decina di giorni. E dunque volevo raccontarvi di questa storia, di questa libreria, perché mi sembra giusto dare spazio, oltre alle storie tradizionali di questo grande documentario, anche a questa storia specifica. Con me ai microfoni di America 24 Alessandro Cassin, che ha riaperto di fatto questa libreria, l'ha scoperta, c'è una storia straordinaria. Buongiorno Alessandro. Buongiorno. Ecco, com'è la storia di questa libreria? Dove riapre? Intanto al Village, sulla dodicesima, no? Mi pare. La libreria è al numero 30 della dodicesima strada, nel cuore del Village. Una delle coincidenze è che negli anni 30 e 40 quella parte del Village si chiamava Publishers Row, c'erano più di 16 tipografie e piccole case editrici in quella zona, quindi era proprio il fulcro dell'editoria locale. Ecco, Alessandro Cassin, che tra l'altro è direttore editoriale della CPL Edition, Centro Primo Levi qui a New York, ha una costola appunto che si occupa di pubblicazione. Ecco, ma che cosa faceva questo signor Vanni quando è arrivato? Perché devo dire, non mi sembra che potesse esserci molta fortuna nel cercare di vendere libri italiani a degli immigrati che magari erano analfabeti, o sbaglio? Sappiamo molto poco di Sante Fortunato Vanni, però ricostruendo e andando a spulciare negli archivi viene fuori l'immagine di un vero visionario. Lui è arrivato all'apice della grande immigrazione italiana in America. Gli immigrati che arrivavano erano fondamentalmente contadini che dovevano trasformarsi rapidamente in muratori e operai. Lui apre per degli analfabeti sostanzialmente un luogo di ritrovo e di congregazione. La sua libreria vende libri, che è la sua passione, ma vende anche tutta una serie di altri articoli, dalle cartoline illustrate, calendari, almanacchi, e in più si inventa questa figura meravigliosa che è lo scrivano. Per queste persone lui scrive le lettere a casa, i contratti d'affitto, le pratiche con le assicurazioni, diventando quindi veramente un punto d'aggregazione per la vita culturale ma anche pratica dell'italoamericano. Ecco, poi questa libreria viene però acquistata da Andrea Ragusa negli anni 30. Tra l'altro tutti e due sono di Caltagirone, sono tutti e due siciliani se non sbaglio. Sì, non sappiamo se le famiglie si conoscono, ma è una curiosa coincidenza. Sono due profili diversi. Di Sante Fortunato Vanni sappiamo poco al di là di questa attività. Apre la libreria e la sua passione è vendere libri. Vende libri a chi non vorrebbe mai acquisire dei libri. Per esempio, il contadino che arriva e non sa l'inglese e deve trasformarsi in muratore, lui stampa e produce dei manuali di costruzioni con soli disegni, come per dei bambini. Attraverso diagrammi e disegni insegna l'arte della costruzione. Andrea Ragusa arriva a New York già un dirigente d'azienda, un consulente editoriale con grande esperienza in Italia. In Italia ha lavorato per la Fratelli Treves e è stato tra i fondatori dell'Istituto dell'Enciclopedia Treccani. Quindi lui arriva in America per vendere la Treccani. Esattamente. Ma come fa a vendere un'enciclopedia italiana in America? Il nuovo agli italoamericani voleva venderla. Era una sfida attraverso cui l'Italia voleva farsi conoscere nel mondo. L'Italia arriva a fare l'enciclopedia italiana in epoca successiva alla Francia, alla Germania, all'Inghilterra. Andrea Ragusa è mandato da Giovanni Gentile, ministro dell'educazione e della cultura, a vendere questa enciclopedia. Nell'anno stesso che arriva, lui acquista una libreria moribonda da Sante Fortunato Vanni, dal figlio. In questa nuova libreria lui riprende questa meravigliosa e antica tradizione italiana del libraio editore. Non più solo la libreria, ma compra delle macchine da stampa e fa diventare questa impresa un'impresa editoriale. E questo sempre negli stessi locali, nella stessa palazzina sulla dodicesima. Qual è la vostra sfida nel riaprire questa libreria? Qual è di trasformarla un po'? Perché voglio dire, chiudono le librerie, ha chiuso anche Rizzoli, adesso riaprirà, però avere ben due librerie italiane, voglio dire, quasi un record, no? Noi ci teniamo ad andare controcorrente per tanti motivi diversi. Aprire una libreria indipendente è una sfida totalmente diversa che avere una grande corporation alle spalle. E quindi cosa volete fare? Oltre a distribuire libri, volete anche pubblicarli, stamparli? Volete un po' tornare alle radici? Torniamo alle radici. Noi facciamo quello che Ragusa ha fatto negli anni 30, subito dopo la Grande Depressione, ovvero produrre libri in inglese argomento italiano. Ecco, tra l'altro c'è un collegamento diretto perché, se non sbaglio, Olga Ragusa, che è la figlia di Andrea Ragusa, vive ancora in questa palazzina, è una donna di 95 anni e quindi è un po' la memoria storica di questa cosa. Esattamente, Olga Ragusa vive nel palazzo perché Andrea Ragusa ha comprato la palazzina, abitazione, appartamenti in affitto e la bottega sotto a livello della strada. Che tra l'altro Olga Ragusa ha scritto poi i manuali di grammatica italiana. Olga Ragusa è stata un personaggio molto interessante, è stata l'assistente di Giuseppe Prezzolini a Columbia University, è diventata professoressa e capo dell'Italian Department, ha scritto di Mallarmé, ha scritto di letteratura italiana, ha avuto una lunga carriera e adesso, dopo aver tenuto questa libreria, caso unico a New York, chiusa per anni con volumi polverosi rimasti lì immobili, ha deciso di affidarla a noi la riapertura. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.